Benvenuti in questa biblioteca, la biblioteca provinciale Claudio Augusta occupa questa sede provvisoriamente in attesa del polo bibliotecario, quindi per qualche tempo dovremo ancora stringerci un pochino e poi avremo finalmente una soluzione più comoda, più agevole e più accessibile. Nel frattempo però non abbiamo perso l'entusiasmo nell'organizzare presentazioni di libri e soprattutto la promozione alla lettura, all'informazione. Questa settimana è una settimana particolarmente impegnativa, cui teniamo molto, è la settimana in cui cade la giornata della Shoah, il 27 gennaio, e come ogni anno presentiamo un libro legato al tema e poi presso il Teatro Cristallo, nel foyer, organizziamo una vetrina tematica, uno di noi rimane lì tutto il giorno a disposizione delle persone per informazioni, per far conoscere la nostra bibliografia tematica. E per far conoscere anche questa biblioteca, naturalmente. Ringrazio i nostri ospiti, Beatrice Primerano, l'autrice del libro che viene presentato questa sera. Ringrazio Lionello Bertoldi, presidente della sezione AMPI di Bolzano, con il quale lavoriamo da tanti anni e collaboriamo insieme. Ringrazio il professor Diego Quaglioni dell'Università di Trento, il professor Vincenzo Calì dell'Università di Trento e della Fondazione Museo Storico in Trento. Ecco. Io vi invito anche a tornare in questa biblioteca per vedere quelli che sono i libri a disposizione sul tema, chi volesse approfondire alcune conoscenze. Abbiamo anche aggiornato recentemente la bibliografia, oppure di venirci a trovare presso il foyer del Teatro Cristallo. Da domani mattina e pomeriggio saremo lì. Ecco, vi do il benvenuto e cedo la parola subito a Lionello Bertoldi. Grazie. Io ringrazio ringrazio la Biblioteca Claudio Augusta, ringrazio il Centro Trevi, ringrazio il Centro della Pace perché collaborano con l'AMPI nell'impegno che ha l'AMPI di proteggere la memoria. Ora stasera non c'è dubbio che analizziamo e vediamo un libro che è uno strumento di protezione della memoria. L'abitanti vedeva quello che sarebbe successo nella sua analisi. Noi abbiamo come compito dell'AMPI, il nuovo compito dell'AMPI è di proteggere questa memoria, per tenere acceso un faro e indicare una strada, perché quell'immenso sacrificio che è stato dietro della resistenza, della deportazione, dello sterminio e della guerra ha regalato all'Europa un piedistallo su chi stanno i suoi anni di pace. L'Europa poggia su un piedistallo terribile dei suoi 50 milioni di morti e l'Italia ha nella sua Costituzione il frutto del sacrificio, della resistenza, della deportazione e della Shoah. Questo è, ecco perché noi indichiamo una strada e proteggiamo la memoria, per avere la luce di quella memoria, per indicare questa strada. Noi riteniamo che tutto quello che avviene nel campo della cultura che organizza il Comune, che organizza la Biblioteca Claudio Augusta, che organizzano altri, siano in sinergia col lavoro e con l'impegno che noi abbiamo. Noi esprimiamo questo impegno, abbiamo rinnovato uno strumento che è stato molto utile per il riscatto dell'Italia dal nazifascismo, che è stata la Resistenza. Rinnoviamo questo strumento dell'AMPI per sapere indicare una strada. Io sono molto ammirato di quelli che stanno a presentare bene i libri. Parlo soprattutto di Augias e di Fabio Fazio, che io li ammiro sempre perché loro hanno letto il libro e io purtroppo mi devo scusare infinitamente, il libro non l'ho niente, lo vedo per stasera per la prima volta. Però io parlo di dove si colloca il libro, che funzione ha questo libro. Noi siamo vicini al giorno della memoria e quello che si sforza l'AMPI è che i giorni della memoria abbia più giorni, non un solo giorno della memoria. Noi dobbiamo ricordarlo costantemente, questa memoria, perché sennò dimentichiamo da dove siamo venuti, dimentichiamo qual è stato il sacrificio per darci la Costituzione e darci la libertà. Noi avremo l'orgoglio quest'anno che da Bolzano parte un treno della memoria diretto a Cracovia, partirà venerdì 27. Io invito tutti quelli che siete, prima andare a salutare i giovani a Palazzo Widmann a mezzogiorno, i 150 giovani di lingua italiana, di lingua tedesca che partono per Cracovia, e poi assistere alla partenza di questi giovani alla stazione. Sarà un nuovo treno della memoria che andrà verso Auschwitz, perché l'auspicio è che quei giovani tornino poi nelle loro scuole, nel loro posto di lavoro, perché sono giovani in età scolare e vicino all'età scolare anche che lavora, tornino ad essere il catalizzatore di questa memoria. Io sono convinto che i 150 giovani che torneranno saranno il catalizzatore che farà accendere una reazione luminosa, in modo che si possa vedere che cosa è stato, perché è stato quell'immane sterminio che è avvenuto in quel più grande campo di concentramento che andranno a visitare, e perché quel sacrificio ha generato valori e diritti che loro stessi hanno nella Costituzione. Perché anche un viaggio a Cracovia e il ritorno a Bolzano per quei giovani deve essere un viaggio di speranza, perché loro devono sapere che quei sacrifici hanno posto nella Costituzione diritti e valori per tutti quanti. Devono conquistarseli. Il compito dell'ANPI è di tenere sgombra la strada. Stasera però introduco il fatto ancora più vicino a Bolzano. L'abitante Battisti aveva ragione di vedere quello che sarebbe successo per quelle leggi razziali, che avrebbe travolto l'immagine, avrebbe travolto la coscienza anche degli italiani. I decreti delle leggi razziali che sono avvenuti uno dopo l'altro hanno avuto la fortuna per le donne, per tutte le donne. Quei decreti, anche la lunga lista di personalità che sostenevano il manifesto per la razza, non c'è nome di nessuna donna. Nessuna donna italiana ha firmato neppure il manifesto per la razza. L'avranno fatto involontariamente o volontariamente, se loro si sono salvate da una vergogna. Bolzano però è vicina a questa vergogna, perché Bolzano aveva l'amministrazione che esisteva al tempo del fascismo, nel 1943 a Bolzano, aveva oliato perfettamente un meccanismo. I nazisti arrivano l'8 settembre a Bolzano e il 9 settembre, immediatamente il giorno dopo, arrestano l'ex maggiore degli alpini Carpi a Bolzano, arrestano un padre di famiglia col figlio perché si chiama Carpi, e nel registro di Bolzano la famiglia Carpi, che abitava in via Leonardo da Vinci, era segnata come perseguitata razziale, erano una famiglia di ebrei. Arrestano il padre e uno dei figli, e i giorni dopo nella casa di via Leonardo da Vinci rimane la figlia più piccola, Olimpia, di 3 anni, con la mamma, e rimangono lì perché sperano che qualcuno torni a casa, e i vicini un giorno vedono un cartello che la casa è disabitata, perché sono venuti, hanno preso l'Olimpia Carpi e la mamma e le hanno portate prima a Ravensbrück e poi le hanno portate ad Auschwitz. Sono assieme a tutti gli ebrei che si erano ricoverati a Merano. Da Bolzano e da Merano partono i primi ebrei deportati dall'Italia, partono da qui. Questa è una delle piccole grandi vergogne della nostra amministrazione. L'amministrazione di Bolzano aveva oliato un meccanismo perfetto per cui il giorno dopo dell'arrivo dei nazisti a Bolzano i primi ebrei partivano già da Bolzano. Ecco perché il libro degli abitanti è vicino a Bolzano. Noi abbiamo ricordato la piccola Olimpia Carpi con la dedica di un parco che sta in via Visitazione, ma c'è un'altra ragazzina che è partita da Merano. Olimpia Carpi aveva 3 anni, ma da Merano parte Elena Stern De Salvo, aveva 6 anni, è stata deportata assieme alla famiglia e neppure questa è mai più tornata. In tutto gli ebrei deportati dalla comunità di Merano verso i campi di sterminio sono stati 35, ne è tornato uno. Ecco cosa significa il significato dello studio dell'abitanti, le previsioni degli abitanti per quello che avveniva, che sarebbe avvenuto. Io ho sempre la voce concitata quando vi parlo, prima ho fatto i ringraziamenti e adesso mi sono messo ad alzare la voce, perché occorre l'aiuto di tutti per tenere acceso questo faro sulla memoria in modo da illuminare una strada. Dopodomani, mercoledì mattina, alle 10, andremo a ricevere nuovamente affidato il binario della deportazione. C'è un binario in via Pacinotti da cui sono partiti tutti i treni della deportazione. 13 treni sono partiti da Bolzano, dal campo di concentramento. Da quel binario sono partiti 13 treni e andremo dopodomani mattina alle 10, tutti quelli che sono disponibili vengano e prendono in consegna assieme a noi quel binario della deportazione. L'ultimo treno, sono partiti 13 treni, l'ultimo treno partì il 1 febbraio 1945. Auschwitz era già stata liberata, la guerra era praticamente finita, eppure partì l'ultimo treno da Bolzano. Quel treno portò via circa 600 persone, fra cui il notaio Pantozzi, che ebbe la fortuna di tornare a Bolzano, ma portò via anche 7 nostri compagni della zona industriale, 7 attivisti del partito della zona industriale, che furono arrestati, torturati al corpo d'armata, messi nelle celle del lago di Bolzano e poi partirono nel treno del 1 febbraio 1945. Durante la notte, perché il treno rimase, i vagoni chiusi, rimasero tutta la notte sul binario di via Pacinotti, buttarono fuori le lettere. Meneghini e l'altro De Gasperi buttarono fuori una lettera. De Gasperi diretta alla famiglia, la lettera diretta alla famiglia. E Meneghini, che non aveva moglie, buttava fuori una lettera per il suo compagno di lavoro. La solidarietà era fra gli umili, non era fra le altre parti. Buttò fuori la lettera diretta al suo compagno di lavoro perché salvasse, prendesse cura del figlio Luigino, un bambino. Il compagno di lavoro, che si chiamava Lanaro, che era un suo compagno, oltre che di lavoro era compagno anche di partito, prese in casa questo bambino e lo allevò come fosse suo figlio. E qui abbiamo una donna Lanaro che crebbe come sorella di questo Luigino Meneghini. Questa è stata la solidarietà, questa è stata la resistenza a Bolzano. Questo è quello che dobbiamo ricordare, perché quei 7 lavoratori della zona partirono per Mauthausen e non tornarono più. E Bolzano rimase ferita ed offesa da questo campo di concentramento. Però ferita, offesa, quando vengono tante delegazioni al campo di concentramento, tante delegazioni di studenti che mi vengono da Asti, mi vengono da Alessandria, mi vengono da Genova, mi vengono da Torino e porto gli studenti a vedere il campo. Ormai è rimasto solo il muro, un grande rettangolo 141 metri di lunghezza per 91 metri di larghezza, solo il muro. E racconto queste cose, dico, sono passati dentro 9.500 donne, uomini, bambini dentro quel lager. Ma poi sono ragazzi, però dico, guardate che quelli sono quelli che vanno garantito la libertà, perché quel sacrificio è quello che consente i ragazzi di Alessandria, di Genova, di Torino e di Bolzano di vedere quel campo e di sapere che quello ha fatto sbocciare la Costituzione italiana e i loro diritti alla libertà, alla giustizia e all'uguaglianza. Questa è la mia visione del libro Abitanti. Io mi auguro che, come fa Fazio e come fa Augias, altri che mi seguiranno abbiano letto attentamente il libro e vi sappiano dare indicazioni sul libro. Io ve l'ho collocato in quello che è la sua funzione. Vi ringrazio. Passa dentro. Passa dentro. Io voglio stare vicino a lei. Posso io? Volevo innanzitutto Bene, così intanto introduco magari generalmente. Dopo questa introduzione così infuocata di Leonello Bertoldi, che sappiamo... Infuocata. Però si capisce, insomma. Sì, certo. Parli anche lei un po' più chiaro. Proverò, cercherò. Io credo che questa serata ci consenta di porre l'attenzione su un testo, a mio parere, estremamente interessante, che ho letto con grande piacere e con grande interesse, di Beatrice Primerano, Ernesta Abitanti e leggi razziali del 1938, con la Fondazione Museo Storico del Trentino, che pubblica questa importante ricerca, che comincia a mettere a fuoco alcuni materiali in gran parte già noti, e credo che, soprattutto con la presenza di due eminentissime personalità intellettuali che provengono da Trento, ma sono noti certamente non solo a livello trentino, il professor Diego Coglioni della Facoltà di Giurisprudenza di Trento, il professor Vincenzo Callì, storico molto noto e molto attivo anche per molte carte che riguardano la storia anche strettamente altoatesina, ci consentiranno questa sera di focalizzare l'attenzione su alcuni temi, alcuni argomenti che io credo siano in realtà di stretta attualità, e credo che non si esageri nel ritenere che questo insieme, questa operazione di collazione di diversi elementi documentari che provengono in gran parte dal fondo depositato a Trento, che aveva poi come titolo Israel anti-Israel, in parte appunto già noto e poi fortemente soprattutto arricchito di tutto l'apporto dell'epistolario che è stato intrattenuto da Ernesta Abitanti, vedova Battisti, con alcuni noti e meno noti protagonisti del mondo ebraico nel 1938, in questa tra il 38 e in realtà il 39, questo momento di passaggio fatidico poi per la storia stessa della persecuzione anti-ebraica in Italia. Credo che gli elementi e gli argomenti di riflessione siano molti e forti. Il primo, se io vorrei essere molto sintetico, così lascerei molto volentieri la parola ai due ospiti che sono molto più illuminati di me rispetto a queste tematiche e a questi argomenti, di cui veramente sono molto contento e non sapevo della presenza questa sera. Credo che il primo punto su cui porre l'attenzione è l'elemento che smitizza, possiamo dire così, e questo secondo me è la ricerca di Beatrice Primerano estremamente interessante, l'argomento che non fosse possibile opporre nel periodo del ventennio fascista nessuna forma di, possiamo dire così, disobbedienza civile, di disobbedienza oltre o al di là dell'aspetto politico, anche strettamente civile e civica, possiamo dire etico-politica, agli aspetti più aberranti della non solo ideologia fascista, ma della pratica poi di potere. Nel 1938 noi sappiamo le leggi razziali, con una notevole velocità poi che viene impressa al ritmo di alcune scelte politiche del regime fascista stesso, e improvvisamente nell'arco di un tempo molto, molto ristretto, nel corso dell'estate del 1938, provvedono rapidamente a dapprima segregare la comunità ebraica italiana dentro a un profilo di carattere addirittura politico-giuridico, dai caratteri sempre più sfuggenti, fino poi a una segregazione nel senso di una sistematica poi espulsione da tutti i posti di lavoro, i ruoli di responsabilità di primo piano, poi di secondo piano, poi di terzo piano, e infine costringendo la stessa comunità ebraica italiana in tutti i suoi rappresentanti o a intraprendere la via dell'esilio, con i costi spesso inimmaginabili, perché non sempre sono stati documentati, che questo comportò, fine di storie familiari, fine di affetti. Ci sono alcuni elementi meno noti anche di questi aspetti che magari bisogna citare, però la legge ad esempio fascista che applicò sistematicamente agli ebrei accolti nel periodo immediatamente precedente alle leggi razziali da altre parti dell'Europa, perseguitati dal nazismo in altre parti d'Europa, li privò immediatamente di ogni tipo di possibilità di avere un minimo profilo giuridico, quindi rendendoli apolidi nel migliore dei casi, e in altri casi provvedendo molto rapidamente a uniformare delle situazioni che precedentemente erano trattate con una certa liberalità, e costringendo per esempio al divorzio delle coppie che erano state di fatto coppie formate da divorzi effettuati altrove, e ora improvvisamente cadeva ogni possibilità di riconoscimento addirittura dello stato giuridico civile di alcune di queste coppie, e queste situazioni sono numerose, fino a privare semplicemente della dignità le persone. Ernesto Abitanti, noi sappiamo, si conosceva abbastanza del profilo di questa interessantissima intellettuale italiana, di origine pavese, ma in gran parte legata allo studio fiorentino, di cui è una delle figure forse più eminenti alla fine dell'Ottocento, all'interno di questa cultura fortemente legata al positivismo intellettuale dell'ambiente fiorentino. Lei è una figura particolarissimamente legata alla figura di Gaetano Salvemini a sua volta, ma di cui è in qualche modo non solo l'interlocutrice privilegiata, ma addirittura la sorella maggiore in qualche modo, addirittura un'educatrice, come riconosce lo stesso Salvemini successivamente. Si forma all'interno di una cultura certamente che risente poi ovviamente di quelli che sono gli effetti, noi sappiamo, della grande svolta dell'esperienza interventista del leader socialista trentino, e che muore nel corso del conflitto, viene molto rapidamente martirizzato, nel senso che non solo la morte violenta e fortemente anche dei ricchi caratteri simbolici che ben conosciamo e soprattutto che Vincenzo Calice ha fatto conoscere molto approfonditamente, arricchirono poi e soprattutto implementarono di una serie di elementi che il fascismo utilizzò in maniera molto efficace nel corso degli anni successivi, ma la vedova Battisti, noi sappiamo, e anche il figlio e i figli non si piegarono al regime fascista e nonostante una breve avventura molto curiosa, addirittura interessante, e questo parlerebbe assai diffusamente, credo, appunto, il professor Callì, nell'esperienza fiumana di Gigino Battisti, che mostra come lo stesso fiumanesimo non sia riducibile a una sorta di protofascismo diciannovista, ma qualcosa di molto differente. Sicuramente la famiglia Battisti rappresentò un faro dell'antifascismo italiano, proprio in virtù addirittura della stessa rilevanza del nome del martire trentino, così era l'appellativo con cui veniva definito costantemente Battisti. Martire sì, ma la famiglia perseguitata, inviata al confino o fortemente limitata nella propria libertà di movimento. La vedova Battisti nel 38 prende la penna, prende posizione e di fronte a un evento apparentemente marginale su cui una buona parte degli intellettuali italiani non pone l'attenzione dovuta, interviene in maniera molto civile, con una serie di considerazioni estremamente interessanti, forse anche che mostrano addirittura alcune componenti ideologiche della stessa formazione della ormai non più giovanissima intellettuale che si era formata nell'ambiente fiorentino, una forte impronta positivistica che rimane fino all'ultimo, con degli elementi alle volte che sono anche abbastanza ambigui dal punto di vista lessicale, usa il termine razza, che è una cosa che stupisce abbastanza essa stessa, ma in chiave non discriminante, né discriminatoria. Prende posizione a sostegno delle persone, delle famiglie, dei singoli appartenenti alla comunità ebraica. Dapprima lo fa in modo molto simbolico, poi lo fa con interventi sempre più marcati, con interventi personali e diretti e con un carteggio straordinariamente ricco, con persone che talvolta rappresentano addirittura qualcosa che lei non condivide. Ci sono molti degli interlocutori che sono fascisti, sono italiani, ebrei, fascisti, che ora conoscono le contraddizioni del regime. Noi sappiamo che la componente della comunità ebraica aderente al regime fu abbastanza fiorente in alcune realtà, nel caso ferrarese in modo abbastanza robusto, nel caso veneziano anche, proprio anche in modo abbastanza equamente ripartito a seconda della entità della comunità ebraica. Una delle più note intellettuali di prima fila del fascismo, Margherita Sarfatti, apparteneva alla comunità ebraica, di origine veneziana, poi milanese d'adozione. Soprattutto dimentichiamo il podestà di Ferrara, Leone Ravenna, apparteneva pienamente a quel filone del partito filoagrario, possiamo dire, dell'ambiente ferrarese, molto vicino a Balbo, che si trovava inserito. Ci sono alcuni casi molto noti, la famiglia Ovazza di Genova, anche qui di personaggi di primo piano, addirittura di gerarchi fascisti. C'è una famiglia molto altrettanto nota in ambiente militare, i Liuzzi, generali e alti ufficiali, che addirittura avevano fondato una rivista, La Fiamma Ebraica, di destra fascista ebraica. Improvvisamente tutto questo castello cade e Abitanti, coerentemente e fieramente antifascista, fino alla primissima apparizione del movimento prima e del partito poi, aiuta anche queste persone. C'è qualche annotazione critica in queste note che sono state così efficacemente raccolte dalla, dalla curatrice e che però testimoniano una capacità di inquadrare il fenomeno dell'antisemitismo in questo momento con una lucidità che si fa fatica a non definire straordinaria, perché in realtà questo lo riconosce immediatamente Momigliano, insomma è un carteggio molto significativo, è una, credo, delle poche figure intellettuali del momento non appartenenti alla comunità ebraica che riconosce quali sono gli elementi forti della dottrina antisemita dentro, in questo momento, alla pratica politica del nazismo. Ne riconosce tutta la portata, tutta la pericolosità, tutto il carico distruttivo e prende posizione in termini inequivocabili. Ecco, credo che già solo su questo piano ci sia molto su cui riflettere, molto su cui discutere. Il secondo punto, brevemente, qui davvero mi avvio a concludere, è anche il notare come alcune, parlavo all'inizio di, dell'attualità di questi ragionamenti, come alcuni punti che sono, si chiariscono progressivamente via via proprio nella riflessione, nell'analisi di Ernesto Abitanti, vedova Battisti, non siano stati poi profondamente assimilati, io direi somatizzati dall'opinione pubblica italiana neppure contemporaneamente. Ci sono alcuni elementi che gravano, io credo, a tutt'oggi con un pregiudizio oggi assai diffuso, forse addirittura più diffuso che in passato, in cui alla comunità ebraica vengono imputate a tutt'oggi, mi vengono in mente numerosissimi esempi di carteggi che oggi vengono fatti in web e non per la posta ordinaria, molti blog, molti luoghi di discussione collettiva, che sono caratterizzati da un antisemitismo più o meno esplicito, per lo più fortemente legato alla tematica antisionista, che riproducono e reintroducono dei luoghi comuni che si pensavano completamente azzerati perlomeno una ventina di anni fa, apparentemente diciamo così rimossi, e oggi ritornano con una notevole forza. Ritornano in ambienti anche molto progressisti, non sono peculiarità solo di filoni neonazisti o neofascisti, che comunque hanno un refrain antisemita esplicito o implicito molto diffuso. Ernesto Abitanti riconosce in termini inequivocabili che il carattere proprio innovativo di questa fase dell'antisemitismo contemporaneo riguarda tutti. Cioè non riguarda solamente una comunità di cui riconosce, combattendo il proprio strutturale positivismo fiorentino, lei era stata una grande sostenitrice della rivista di filosofia scientifica, è una grande, ha fatto un'opera di diffusione, addirittura militante proprio di questa rivista, che aveva avuto il merito di introdurre nella cultura poi tardo ottocentesca la grande discussione, il grande dibattito anche fisiologistico. Il Fomole Schott insegnava nello studio fiorentino, ci sono una serie di figure che sono estremamente significative che gravitano intorno a questo ambiente. Combattendo questo legge in maniera estremamente efficace l'anomalia di questa nuova forma di antisemitismo che sta diffondendo e dice, e qui concludo molto rapidamente, dice: la persecuzione che c'è in atto, dice, è diversa da quella politica. Dice: ma qui non c'è stato combattimento, non c'erano nemici da cui guardarsi. Si è abbattuta dalla volontà di fratelli una furia cieca e pazza come di terremoto e di inondazione. L'assurdo colpisce quanto e più della malvagità. Queste pagine, che sono presumibilmente scritte nel 39, perché dopo poco ci sono alcune note su Ardengo Soffici estremamente taglienti, mentre si assiste in una fase oggi anche di riscoperta di alcuni di questi teppisti intellettuali sotto un allure vagamente così affascinante. Nota le prese di posizione antisemite di Soffici sul Popolo d'Italia e le stigmatizza, appartiene allo stesso ambiente, la stessa comunità intellettuale, sapeva indicarne, vederne bene anche lì l'antico estensore degli scritti sull'Emmonio Boreo, che faceva l'esaltazione del manganello e della cura del manganello, aveva ora aderito all'orientamento antisemita nonostante le frequentazioni parigine molto ricche. E questa annotazione potrebbe essere stata sottoscritta da un'altra grande figura intellettuale femminile dello stesso periodo, Hannah Arendt. Io quando ho letto queste frasi, devo dire, la lettura arendtiana è qui quasi immediata. La capacità di individuare con questa lucidità nel processo in atto che quello che sta avvenendo ha una qualità diversa, ha una qualità nuova. Qui sono ancora lontani i fenomeni che noi poi conosceremo successivamente, di segregazione che diventa fisica, da fisica diventa distruttiva e diventa la politica della nettura. Qui si intravede solamente, ma questa capacità di diagnosi io credo che sia veramente particolarissima. In questo senso ci consegna anche il profilo di una intellettuale probabilmente degna di essere riscoperta, forse con maggiore anche finezza dal punto di vista anche filologico di quanto non si sia fatta fino ad oggi. Quindi io in questo senso ringrazierei ancora la curatrice di questo bel testo, ringrazio chi ha avuto la cortesia di ascoltare, passerei la parola. Grazie Andrea Felis, ha introdotto questo libro che pubblichiamo. Spetta a me, come esponente della Fondazione del Museo Storico del Trentino, siamo gli editori del lavoro di Beatrice Primerano. Beatrice Primerano si era cimentata con questo tema nella sua tesi di laurea, oggi sta seguendo il dottorato sulla figura di Piero Calamandrei, un'altra figura importante che rientra in questo, diciamo così, nobile castello, no, dell'Italia del Novecento. E come curatore dell'Archivio Battisti sono particolarmente contento che sia uscita nella collana Opere e Fonti Battistiane, il lavoro di Beatrice, perché quella collana era nata proprio nell'intento, prima di arrivare ad interpretazioni storiche, prima di arrivare alle biografie, prima su personaggi come Cesare Battisti ed Ernesta Bittanti, il tratto di strada da percorrere prima di arrivare alla presunzione di scrivere delle biografie prevede appunto un'attenzione e un rigore sulle fonti. La collana di fonti fino ad oggi aveva appunto raccolto dall'Archivio Battisti un importante lavoro del Cesare Battisti geografo, uno dei più grandi geografi che avevamo avuto nell'Italia di fine 800 e inizio 900, no? Spesso dimenticata questa funzione del Battisti geografo, un importante carteggio fra i Battisti, cioè Ernesto Bittanti e Cesare Battisti e Gaetano Salvemini, altra figura decisiva per la storia del Novecento. Quindi l'attenzione dell'archivio e del museo nel pubblicare le fonti battistiane era questa, no? Andare a mettere in evidenza attraverso pubblicazioni con edizioni critiche le opere di questi due personaggi. Ora più il tempo passa, più la persona dell'Ernesta comincia a prevalere su quella di suo marito Cesare. Cioè, questo è interessante, nel senso che le figure femminili in questa storia, vedete, Beatrice Primerano e altre studiose che si erano occupate di questi temi prima di lei, stanno a dimostrare come l'attenzione femminile sia importante, no, su queste tematiche. Anche la raccolta nell'archivio Battisti delle fonti battistiane, c'è qui Mimma Battisti, la nipote di Cesare, con cui abbiamo insieme ritrovato, no, nelle fonti battistiane questo Israele anti-Israele, nelle soffitte di casa Battisti, per dire come le figure femminili sono centrali sempre, no, nella nostra storia del Novecento. Ed emergono sempre di più il tempo passa. Per questo dicevo che la figura di Ernesta, attraverso queste fonti, attraverso la pubblicazione in questo caso dell'edizione critica del diario di Ernesta, Israele anti-Israele, mette in evidenza, e l'ha detto Andrea Felis in modo molto preciso, la rilevanza di questa figura, no? La rilevanza per il suo impegno civile. Naturalmente stiamo, diciamo, di fronte a uno dei periodi più bui della storia italiana del Novecento. Diciamo che la frattura che avviene nel 38 con le leggi razziali riporta l'Italia indietro rispetto a una coscienza civile che aveva maturato attraverso il Risorgimento. Stiamo di fronte oggi ai 150 anni dell'Unità d'Italia. Bene. Ernesta Bittanti nel 38 si accorge che il vulnus più grave a questa unità e a quella formazione dell'Italia nel Risorgimento viene dalle leggi razziali. Non sufficientemente sottolineata la gravità delle leggi razziali nell'interrompere un percorso che ha portato all'unità d'Italia e alla piena consapevolezza del significato di essere nazione, di avere appunto attraverso il Risorgimento portato al riscatto un popolo che non aveva appunto voce. un volgo che nome non aveva. Le leggi del 38 ci hanno riportato indietro rispetto a questo. L'abitante ha avuto la consapevolezza di esserne consapevole immediatamente attraverso le pagine, non solo le pagine sul diario, ma nel momento in cui anche pubblicamente, dopo un contenzioso non facile con il Corriere della Sera, riesce appunto a far pubblicare il necrologio di Morpurgo nel momento in cui le leggi razziali impedivano i necrologi per gli ebrei. Questo sta a significare che non si trattò soltanto di un impegno intellettuale, no? Ma fu anche un'esposizione diretta in questo campo. Comunque, come editori, noi del Museo Storico siamo molto felici che con Beatrice Primerano la collana delle opere fonti battistiane continua. Il prossimo lavoro sarà su Piero Calamandrei, altra figura centrale appunto che si unisce alla storia del nostro museo, di cui Beatrice Primerano sarà appunto anche in questo caso l'autrice. Grazie Beatrice, e lascio la parola al professor Quaglioni. Ecco, cari amici, ho ascoltato delle cose molto importanti dette da tutti coloro che mi hanno preceduto e non mi è facile intervenire in questo momento, sia perché si parla del lavoro di un'allieva che ho in comune con il mio amico Vincenzo Calì, perché l'abbiamo tenuta insieme a battesimo alla tesi di laurea qualche anno fa, sia perché si parla di temi che sono oggi particolarmente delicati e importanti. Il libro può apparire anche solo la pubblicazione in veste critica di una fonte, e niente di più, una fonte importante per la storia contemporanea, per la storia civile del nostro paese e non solo. Se ne fanno tante di pubblicazioni e questa è una delle tante. Pubblicare una fonte importante per la storia contemporanea, significa avere la capacità di ritrovare, leggere la documentazione, ordinarla, pubblicarla con un buon apparato critico, insomma lavorarci assiduamente, spenderci del tempo, affinare le proprie competenze, tutte quelle cose che sa chi abbia dimestichezza con i documenti. Eppure a me non riesce di considerare questo testo solo una delle tante fonti e neanche questa pubblicazione una delle tante pubblicazioni importanti che in questo periodo nascono, in questa reviviscenza di interesse per la nostra storia recente. La fonte è una fonte particolarmente importante, Felis non ha sbagliato a definirla come una fonte del tutto straordinaria, sia perché è una delle poche testimonianze di parte non ebraica della tragedia nazionale e della tragedia dell'umanità avviata con il terribile progetto della persecuzione e della soppressione degli ebrei in Europa. Una delle poche fonti interne al mondo non ebraico, diciamo pure al mondo cristiano. Ci sono diari della persecuzione, ci sono epistolari, lettere, ricordi, narrazioni, romanzi, celeberrimi. Il più celebre e il più letto di tutti i diari è quello di Anne Frank, che oggi anche possediamo in una edizione critica e anche in una edizione italiana che ripercorre l'edizione critica. Un grande testo che ha, credo, non solo fatto luce, ma anche contribuito a costruire la etica di alcune generazioni, di intere generazioni, delle nostre ultime generazioni, a formare una nuova morale. Eppure questo diario, che è così lontano dalla tragedia della esperienza personale della persecuzione, ha al suo interno pagine che contengono una vera sofferenza personale, che avvicina quelle stesse pagine a pagine della diaristica o della memorialistica ebraica tra le più sofferenti e tra le più alte. Quello che stupisce, qualche volta veramente tocca profondamente in questo testo, è la capacità della partecipazione sul piano etico e sul piano intellettuale alla tragedia in atto. Allora, il fascismo, che non è mai stato avaro di neologismi, qui forse a tutti bisognerebbe ricordare che uno dei primi sintomi della degenerazione di una società e di una cultura è la degenerazione della lingua, l'elemento della comunicazione sociale. Il fascismo, che non è mai stato avaro di neologismi, di invenzioni neologistiche, coniò il termine pietismo per indicare l'atteggiamento di tutti i non ebrei che si sentivano colpiti dalla tragedia personale e collettiva dei loro simili, dei loro concittadini italiani, dei loro colleghi, dei loro amici, spesso anche dei loro congiunti, perché la società italiana non era una società della segregazione da almeno il 1848, almeno da quando nel Regno di Sardegna la differenza di culto aveva cessato di comportare la discriminazione, aveva cessato di essere di ostacolo al godimento dei diritti civili e dei diritti politici per gli israeliti. Pietismo, si potrebbe dire, si tratta di un'anima molto sensibile, di un'anima particolarmente aperta alla comprensione, e quindi si può capire. È una donna che aveva patito una ingiuria tremenda, come quella della morte sul patibolo del proprio marito, e che perciò poteva avere una sensibilità più sviluppata. Ma chi legge questo diario capisce che non si tratta di questo, si tratta di qualcosa di più profondo. C'è, prima ancora che una partecipazione di tipo non sentimentale ma etico, una partecipazione intellettuale al dramma. Lo ha già detto Felis, la Ernestina era una donna di fortissima tempra intellettuale, lo riconosceva Salvini. Ci sono delle testimonianze molto belle dei suoi amici e compagni di studi. Aveva studiato nella Firenze di Salvemini, suo compagno di studi universitari. Si era formata ad una scuola di studi letterari e storici, che era quella di Pasquale Villari, che era quella dei grandi interpreti del Risorgimento, che erano anche spesso patrioti scacciati dal loro paese d'origine e che avevano trovato ospitalità nella nuova Italia. Era l'Italia risorgimentale, l'Italia che credeva negli ideali della costruzione di una società nuova, unita, democratica, che credeva soprattutto nel principio dell'eguaglianza giuridica dei soggetti. E la Bittanti, anche sulla base di una tradizione appunto risorgimentale, di tipo non solo strettamente liberale, ma anzi diciamo di tipo democratico federalista, come era quella di Cattaneo, sottolinea ampiamente nel diario che il senso più forte della tragedia sta proprio nella frattura, nell'interruzione di un disegno di civiltà. Di civiltà giuridica, prima ancora che di civiltà nel senso più ampio del termine. Credo che lei avesse compreso bene come l'onta peggiore per la società italiana in quel momento era quella di fare del diritto, sia pure nella sua espressione autoritaria, la legge, ma di fare del diritto lo strumento di oppressione del diritto stesso, cioè di oppressione di un principio di giustizia. Rendere ineguali coloro che per il diritto erano stati cittadini a pieno titolo e spesso erano stati cittadini a pieno titolo e meritevoli della più alta stima da parte della nazione intera. Nel diario si rivela una rete di rapporti che è il segno di una capacità di comunicazione straordinaria, di una donna straordinaria, di una donna fuori dal comune. Non a caso il primo e più importante richiamo del diario è quello a Cattaneo, alle interdizioni israelitiche, al testo che nel 1837, sia pure soggetto alla censura della Commissione per la censura di Vienna, apparve per commentare un caso celebre, quello dei fratelli Wahl, israeliti francesi a cui la legge del cantone di Basilea precludeva la possibilità di essere proprietari di un fondo rustico e che aveva portato ad un caso internazionale molto importante. Ho voluto portare stasera qui, se volete anche come simbolo, la prima edizione delle interdizioni israelitiche che Cattaneo ripubblicò caparbiamente nel 1859, aggiungendo il capitolo che la censura austriaca aveva voluto cassargli. Questo è il volume del Politecnico nel quale si trova il testo. È a Cattaneo che si rivolge la Battisti per darsi una spiegazione di quel che succede o per tentare di trovare una spiegazione a quello che sta succedendo. È un ritorno indietro, è un salto indietro tremendo della società italiana. È come se appunto tutta la stagione risorgimentale fosse cancellata d'un colpo. Non si tratta solo di un sentimento di umana comprensione, pietà e di umana partecipazione ad una tragedia che coinvolge cerchie di amicizie familiari e personali. Si tratta del senso acuto della crisi dell'intera società italiana, davanti a iniziative certo politiche, ad una campagna virulenta, alle leggi, a cominciare dal Regio Decreto Legislativo 1728 del 17 novembre del 1938, un Regio Decreto Legislativo con tanto di numero e di data, così come tante altre norme da allora fino ad oggi, con le quali il potere plasma o cerca di plasmare una realtà che per fortuna spesso sfugge alla velleità di introdurre norme che contrastano con la ragione, come in questo caso. Insomma, un testo importante che può essere letto, come si dice spesso, a diversi livelli. C'è il diario, c'è la testimonianza personale, ci sono le notizie delle relazioni importanti, con anche le famiglie importanti dell'ebraismo, Morpurgo, i Franchetti, con gli intellettuali, Provenzal e tanti altri, ma c'è soprattutto una vena di pensiero autonomo. Insomma, io credo che non sbagliasse prima Felis a ricordare Hannah Arendt, perché c'è un'impronta comune che probabilmente è l'impronta dell'Ottocento europeo e della grande formazione intellettuale degli uomini e delle donne dell'Ottocento, con il loro credo, ecco, nella libertà ordinata, nel progresso, sì, nelle idee positive. Penso che una lettura arendtiana, come tu dicevi, di questo testo non sia sbagliata, e credo che Beatrice Primerano abbia anche fatto in certa misura una lettura arendtiana di questo testo, richiamandosi appunto alle origini del totalitarismo, alla quella parte del celebre testo della Arendt dove l'antisemitismo è studiato e considerato appunto come non come un episodio, ma come uno dei segni distintivi del totalitarismo, quale che sia il suo segno, e quindi l'antisemitismo come quel miscuglio di fantasie, di menzogne, di mezze verità, come dice la Arendt, che divenne in un certo momento il rifugio di tutti coloro che dallo Stato e dalla crisi dello Stato si sentivano colpiti. Un moto di massa, sciaguratamente, che fu strumentalizzato, guidato, sfruttato e che ha portato alla catastrofe dell'Europa. Il libro di Beatrice Primerano non è solo un'edizione, anche se è una edizione critica, e qui bisogna veramente ringraziare ancora il museo, i suoi direttori, a cominciare da Vincenzo Calì, che hanno propiziato e promosso questa edizione, perché l'edizione precedente era un'edizione molto, molto benemerita, ma fatta con metodi artigianali e con un risultato parziale. E pur essendo quello che ho appena detto, quella edizione era molto importante e fu salutata quando uscì come un'edizione molto importante. Vincenzo Calì pubblica nella introduzione un testo molto bello di Renzo De Felice a commento dell'edizione di allora. E bisogna riconoscere appunto questo merito, però era un testo privo di apparato critico, privo di note, che non fossero note superficialmente esplicative. Ora abbiamo una guida e abbiamo un testo sicuro, e anche credo un bel modo per valorizzare la documentazione di un archivio che non si limita solo alla custodia, no? della memoria, ma che appunto la valorizza e la porta debitamente a conoscenza. È un libro molto ben realizzato, con una introduzione che è un contributo alla comprensione del fenomeno, in termini naturalmente storico-giuridici, ma non solo storico-giuridici e storico-istituzionali, e che credo renda o contribuisca a rendere giustizia alla personalità di Ernesta Bittanti Battisti. C'è un passo che poi è stato veramente sottolineato anche da Vincenzo nella sua introduzione, in cui Beatrice Primerano scrive che Ernesta Bittanti, una cremonese che aveva studiato a Cagliari seguendo suo padre, che era preside di liceo e che studiò a Firenze, ma visse la sua vita a Trento, no? A Trento, in questa terra, in questa regione. Fu una donna straordinaria, che diede sempre tutta se stessa senza mai chiedere niente per sé. Contrariamente alla sua corporatura modesta, fragile, con una voce flebile e profonda, malferma in salute e facile al turbamento, manifestò nei momenti più difficili un coraggio supremo, combattendo e testimoniando per la libertà, in obbedienza ad un unico motivo ispiratore, una religione della libertà, che la fece divenire un simbolo dell'Italia civile, di tradizione risorgimentale. È una frase che mi piace di leggere e di ricordare, perché è una espressione, credo, molto vera, che ci restituisce un ritratto parlante. Il libro ci restituisce anche dei ritratti in senso proprio, è corredato di alcune delle bellissime fotografie dell'archivio Battisti, che sono depositate presso il Museo Storico di Trento. C'è una foto appunto ottocentista, ecco, della Ernestina, una foto di famiglia, Ernesta con i suoi figli, e ci sono poi le foto di due pagine di diario, che sono la prima, quella in cui appunto Ernesta dice incomincio a scrivere, e un'altra pagina, quella in cui traccia la sintesi di una, quasi la cronaca di un periodo più lungo. Questa è la sua grafia regolare, minuta, elegante, di questo quadernetto umile dalla copertina marrone, è vero, che è depositato. C'è anche un'altra fotografia, quella di un altro gruppo familiare privato, come l'altro, di un padre. Sono i figli di Augusto Morpurgo con la sposa Maria Morpurgo Castelnuovo. Augusto Morpurgo, colui per il quale Ernesta si espose, come è stato detto prima, scrivendo quel famoso telegramma al Corriere della Sera, che fu un episodio di vera e propria resistenza. Lo dico ricordando Maria Morpurgo, che ho avuto la fortuna di conoscere personalmente quando ero più giovane, di conoscerla nei suoi ultimi anni a Roma, e perché ho avuto la fortuna di leggere le sue memorie scritte per la famiglia, scritte per i figli, memorie nelle quali appunto il ricordo di Ernesta Bittanti e dei Battisti è sempre presente e vivissimo, ecco, è vivissimo. È un libro importante questo, che spero abbia la circolazione che merita, perché è un testo importante per gli storici, ma è un testo importante per tutte le persone di cultura, per chiunque faccia scuola, cultura, per chiunque, anche in questo nostro paese oggi così poco felice, abbia conservato la fede appunto nei principi che qui abbiamo spesso evocato. Grazie. Dopo tutte queste belle parole non saprei cosa aggiungere, vorrei solo far riflettere. Questo è un diario, una fonte importante, ma principalmente per me è stata una lezione di umana fratellanza e civiltà. Leggendo questo testo ho capito ancora di più che le leggi razziali non hanno colpito solamente gli ebrei, ma è stata una tragedia per tutto il genere umano, perché ancora una volta, come insegna gli abitanti, la sofferenza colpisce tutti, è totale. E un'altra cosa che emerge da queste pagine è che ogni essere umano è sempre un valore, qualunque sia la sua religione e la sua identità. Questo le leggi razziali probabilmente se lo sono dimenticato, ma gli abitanti no, combattendo e aiutando tutti, senza mai chiedere nulla in cambio. Un aspetto importante di questo diario è l'importanza che emerge della storia. L'ignoranza della storia non colpisce soltanto una difficile comprensione del presente, ma compromette una lezione medesima, cioè che quello che è avvenuto può avvenire ancora oggi, e ne sono testimonianze tanti eventi quotidiani. Io penso che questo testo non sia soltanto un testo da studiare, ma più che altro da amare e da capire. Voi pensate che ci sia la possibilità di aprire? C'è un'infinità di domande. Allora, occorre un primo. Storia magistra vitae, teniamone conto di quello che sta successo. Ha detto benissimo la dottoressa. Teniamone conto perché oggi potrebbe ricapitare. So che non tutti sono d'accordo, ma penso che sia la cosa più importante dello studio di uno storico: abbracciare sempre il passato al presente e non al passato remoto e così via. È il presente che in cui viviamo. Sì. Mimma Battisti, due parole Mimma sulla nonna. Io vorrei dire qualche cosa. Cominciare per me un discorso dopo aver sentito e tratteggiata la figura della mia nonna in una maniera così, così completa e così vera. Era sicuramente una donna che sembrava fragile, ma aveva una forza, una potenza e una dirittura morale che io ho imparato per il suo esempio e non dalle sue parole. Io ricordo i momenti delle leggi razziali. Io sono nata nel 1936 ed ero molto piccola. Però ricordo, ed ho una fotografia, in questa fotografia ci sono io, piccina, avrò avuto un 3 anni, ero in un giardinetto pubblico di Milano. E vicino a me c'è la mia nonna con un atteggiamento protettivo nei miei confronti, con le braccia un po' aperte. Era vestita di nero perché lei ha portato il lutto sempre dopo la morte di suo marito. E su questo vestito nero ha la stella di Davide. Lei la portava portandomi a spasso, non la portava per farsi vedere nei luoghi pubblici, nei luoghi dove c'era, dove si poteva, dove era, ci si poteva far vedere, ma lei la portava portandomi a spasso, poteva portarla, e la portava sul suo cappottino. Ecco, questa è la mia testimonianza. Io volevo dire qualche cosa perché ho conosciuto Ernesta Battisti, sono stata diverse volte a casa sua a Trento e era la mamma della mia insegnante di chimica, la dottoressa Lidia Battisti. Ho avuto quindi il piacere di conoscerla e mi ricordo tutte le volte che sono andata a casa sua che mi parlava del monumento della vittoria di Bolzano, proprio perché sapeva che ero bolzanina e mi diceva: è una cosa che non sopporto, che ci sia l'erma di mio marito lì in quel monumento. Altrettanto diceva del DOS Trentino, lo stesso dice: non sono mai andata alle celebrazioni che si sono svolte in quei periodi, in questi monumenti. Quindi questo è per ricordare il suo attivo antifascismo. Quindi per me è stata veramente una grande donna. Grazie. E io sono contenta che sia una donna al centro dell'attenzione. Di solito vengono sempre studiati gli uomini, mentre insomma anche le donne hanno avuto un ruolo molto importante. Ed è molto bella che sia una figura femminile questa volta al centro dello studio. Abbiamo evocato la più grande pensatrice, la più grande espressione del pensiero del Novecento, che è una donna. Hannah Arendt è una donna, è il culmine del pensiero filosofico e politico, quindi sarebbe la pena pensare alla funzione che ha avuto la famiglia Battisti, perseguitata dai fascisti durante il periodo del fascismo. Io ricordo un episodio, l'ho vissuto da bambino. Gigino Battisti era nel più bel bar di Trento, il Caffè agli Specchi. Il Caffè agli Specchi di Trento era il più bel bar. Un meccanico che andava a comprare dei pezzi in tuta ha visto il suo amico Gigino che stava dentro, che era insolentito e picchiato da alcuni fascisti che stavano dentro al bar. Morale della favola, quel meccanico ha perso la pazienza e una famiglia di Nevico ha pagato Specchi per 6 anni. Bene, con queste testimonianze di prima, prego. Io non ho riletto da poco questo diario di Ernesta Battisti. Sicuramente la signora che ha scritto il libro mi aiuta. Il primo punto che lei scrive è appunto il primo punto in cui la Battisti scrive, dice che il patto Mussolini-Hitler è incentrato sul fatto che l'Alto Adige deve rimanere italiano. Mi dà la conferma? Sì. Nella prima pagina, in fondo alla prima pagina. Ecco. E cosa dice? Lei sospetta che sia uno dei motivi, uno scambio, no? Uno scambio, una propensione di Mussolini a introdurre le leggi razziali per in qualche modo diciamo così avvicinarsi nella sua propensione all'alleanza, che poi è fatto d'acciaio, insomma, sì. Con Hitler ci sia questo il sospetto degli abitanti che sia stato appunto uno scambio di sì, è proprio il punto, il primo punto. Uno, ecco, chi vuol comprendere la ragione del decreto, voci, uno, obbedienza a Hitler in cambio dell'intangibilità dell'Alto Adige. Questo è il primo punto. Qui c'è la foto. Siamo in fondo alla prima pagina. Uno, eccolo qua, in fondo alla prima pagina. È così. E forse non è un caso, anche qui l'evocazione di Hannah Arendt non è per nulla sbagliata, che l'Alto Adige sia la sola terra italiana citata dalla Arendt nelle origini del totalitarismo, quando parla della tragedia delle opzioni come di una tragica illusione offerta ad un popolo che tuttavia era tra quei popoli che in Europa in quel momento sentivano indebolirsi i diritti di fronte all'insorgere dei nazionalismi, al trasformarsi del diritto in diritto dello Stato nazionalisticamente connotato. Ecco. È una pagina, credo, abbastanza trascurata, ma che in altre occasioni ho segnalato. Una volta ricordo proprio in un incontro che fu propiziato e organizzato dalla signora Zendron, che era qui prima, e quando era assessore, e che riguardava quella volta la chiusura del pacchetto De Gasperi, l'accordo De Gasperi-Gruber e la chiusura del cosiddetto pacchetto. Quindi un parallelismo che ritorna significativamente anche nelle origini del totalitarismo. Non tocca a me decidere. Beh, tocca all'editore, in questo caso il Museo Storico, ringraziarvi per la partecipazione così sentita e ci diamo appuntamento al prossimo lavoro di Beatrice Primerani. Io invito prima a partecipare a tutte le manifestazioni con cui vogliamo intessere i giorni della memoria di questi giorni. Quindi vi invitiamo al binario della memoria, vi invitiamo al muro del Lager e vi invitiamo anche ad inaugurare lo spazio dedicato a uno degli ebrei deportati e uccisi che sono nati a Bolzano, l'avvocato Lev Kadon. Verrà dedicato uno spiazzo vicino a via Ambalaggi e lo inaugureremo giovedì 27 alle ore 9. Saremo lieti di vedervi tutti.